Allora, grazie a tutti di essere qui, grazie ad Alberto, d'amico soprattutto, perché appunto ospita questo incontro, concerto, mostra, presentazione di libro. E grazie, oltre a voi, chiaramente che siete venuti ad ascoltare, a Ada De Pirro, che è la mia sinistra, e Giuseppe Carrera, che è la mia destra, che hanno avuto la bontà di accettare l'invito a introdurre questo libro che si presenta stasera, che si intitola Enciclopedia Asemica, e Giuseppe poi in particolare ha proprio scritto i testi, l'introduzione e l'intervista che chiude il volume. E appunto non mi resta che lasciare a loro la parola, in quanto mi sento già troppo imbarazzato per quello che Io. ho Sì, allora, breve presentazione, spero breve, del libro di Marco Giovenale. Perché presentazione? In realtà perché è un libro che potrebbe sconcertare i cosiddetti lettori di poesia, in quanto si tratta di un libro pienamente scritto, il che significa non necessariamente pienamente leggibile, anzi. Un libro pienamente scritto, io lo definirei un libro pienamente illeggibile, proprio perché la scrittura lo ha inglobato totalmente, cioè la scrittura lo ha reso assoluto, diventa elemento assoluto. Intendo perché si scrive in una scrittura illeggibile, se vogliamo anche illegittima. L'illeggibilità della scrittura è anche la sua illegittimità. Perché? Perché la genealogia della scrittura illeggibile, chiamata scrittura asemica, semantica, e cioè, per dirla in termini abbastanza banali, di segni che non significano nulla, o meglio, che non sembrano neanche nascondere la possibilità di un significato, dunque non è una criptoscrittura, è una pura scrittura come manifestazione materiale della scrittura stessa. Anzi, dovessi definire questo libro, lo definirei un reame, un regno dei segni, o della felicità dei segni, che si sono liberati dai significati, hanno attraversato e superato l'alfabetocentrismo della nostra tradizione, per cui al centro ci deve essere un alfabeto e dunque un significato. Due cose su cui si indaga quando si parla delle scritture asemiche: la genealogia di queste scritture, cioè da dove vengono, come sono arrivate a noi, quali sono i maestri, i modelli, e qui diventerebbe ovviamente fuori luogo parlarne se non per un breve accenno, e cioè si va dall'ipotesi all'interno, tutte comprese, delle scritture cosiddette senza controllo, fuori controllo del surrealismo. Quelle automatiche, ma quelle con una particolarità che poi venne abbandonata quasi subito da Breton e compagni e che noi ritroviamo nella nostra educazione scolastica. Quando uno scrive e l'insegnante ti dice: ma non sai neanche scrivere non sai neanche leggere la tua scrittura. Ricordatevi che una delle grandi affermazioni delle elementari: chi non legge la sua scrittura è un asino di natura. Per cui io, Marco, chiunque prenda questo libro, è un asino di natura perché non siamo in grado di leggere questa scrittura. Addirittura Marco non è in grado di leggerla, il che significa che appartiene a una asininità straordinaria. Perché? Perché dal surrealismo ci viene un'indicazione. Le scritture asemantiche, illeggibili, sono scritture disubbidienti al sistema, cioè disubbidiscono, escono fuori da quello che è il sistema di apprendimento. Recentemente, con un certo stupore, ho letto tra le nuove indicazioni riguardanti il comportamento nei confronti degli alunni delle scuole materne e elementari, si parla di abuso scrittorio. Mi è piaciuta molto come affermazione, e cioè se si costringe un bambino che avrebbe la tendenza a scrivere con la sinistra a scrivere con la destra, entriamo nell'abuso psicologico. Potrei dire che se lo costringiamo ad allineare le parole, a dare senso ai segni, a formare le sillabe, a scrivere sotto dettatura, a rispettare i margini, a a sapere il significato delle parole, a rendere leggibile la sua scrittura, ad avere dei significati, a curare il contenuto, potremmo dire che noi siamo tutti vittime di abusi, cioè che tutta la nostra formazione scolastica è stata un abuso di campi di libertà scenici, cioè della matericità della scrittura, della bellezza scenica della scrittura. Ora, intanto direi che uno degli elementi che suggerirei nella lettura delle scritture asemantiche è quella di territori di felicità, e sono felicità di tipo corporeo. Roland Barthes dice una cosa straordinaria che lui scopre e intuisce nei suoi viaggi, ovviamente in Oriente, in Giappone, cioè intuisce che e sostiene che il primo impulso a scrivere è un impulso corporeo e ritmico, non di significato e di comunicazione. Cioè la scrittura viene violentata e abusata a entrare nei campi della comunicazione unidirezionale, alfabetica, eccetera. C'è una distinzione, credo che sia indispensabile per avvicinarsi alle scritture asemantiche, una distinzione che qualsiasi che se ne occupa fa. Ci sono le cosiddette scritture per punzonatura e le scritture per pennellata. Tenete presente che le scritture che tendono al significato, cioè alla violenza del significato, al potere del significato, sono di punzonatura, cioè significa che tu incidi, usi come il calamo con il pennino degli elementi che incidono, cioè inscrivono, mentre le scritture asemantiche sono di pennellata, e cioè usano il pennello e tendono ad accarezzare la pagina, non la violentano mai, e a non incidere, ma a descrivere, e cioè a fare in maniera tale che io possa giocare su due elementi, il piacere corporeo del ductus della mano e il piacere di venire a contatto con zone illeggibili del mio io. E da qui ritorniamo poi alle scritture, quelle automatiche del surrealismo. C'è una scena che mi viene sempre in mente quando vedo le scritture, ho visto le prime volte le scritture di Marco. Tenete presente che le scritture di Marco hanno anche dei raptus, cioè nel senso che sono improvvise e immediate come le installanze di cui parlerà, e che diventano dei momenti di ribellione totale al sistema semiologico del vivere, cioè al linguaggio. E dunque, quando meno ci se l'aspetta, lui può darsi che prenda un foglietto e abbia bisogno di danzare, fare una sorta di ghirigoro, di scarabocchio. Ricordatevi che siamo tutti in categorie antiscolastiche, cioè di disubbidienza. Non scarabocchiare, sii pulito. Ebbene, dicevo, mi viene sempre in mente una scena che adoro, degli Anni in tasca di François Truffaut, è la scena, credo, iniziale del film, per cui fa un po' da emblema. Gli Anni in tasca è un modo francese per dire che hai ancora tutta la vita davanti a te, che sei ancora un bambino. C'è un bambino delle prime elementari che sta il primo giorno di scuola ed è seduto sul banco, ha un grande amore per gli oggetti materici della scrittura, cioè molto orgoglioso del calamaio dove ha l'inchiostro, è molto contento del pennino, è compiaciuto, guarda i suoi compagni, si confronta nella bellezza dei supporti cartacei, ha un bellissimo quaderno, entra l'insegnante e dice dettato. E l'insegnante comincia a dettare questa poesia più o meno scena, quelle con le filastrocche, eccetera, e lui che comincia a scrivere, e sono tutte macchie, scarabocchi, è in ritardo sulla dettatura, strappa il foglio e lo butta, lo accartoccia, lo mette sotto al banco, come si faceva, no? Sotto al banco comincia, entra in una sorta di incubo dove tutti gli elementi della scrittura diventano elementi di tortura. La pagina, ricordatevi che la pagina nel momento in cui io disubbidisco all'allineamento diventa un campo di precipizio, di baratro, di perdita, di naufragio. Quando noi scriviamo manteniamo i contorni della pagina. Immaginatevi se noi a scuola continuassimo un tema sul banco a scrivere o sul muro, come ha fatto di là nella mostra Marco, e dicessimo all'insegnante, il mio tema continua fuori attraverso le porte e la scrittura, la mia scrittura è debordata per un fatto anche di godimento, la scrittura è una sorta di manifestazione erotica quando diventa puramente fuoriuscita dal pennino. Ebbene, questo bambino distrugge tutto il quaderno perché è in ritardo su tutto, non è allineato alla dettatura, non è allineato ai segni, a quei segni, e Truffaut dedica un'inquadratura ai fogli strappati. E i fogli strappati sono un piccolo omaggio meraviglioso, pittorico, al capolavoro che lui in realtà ha fatto. E cioè quella inadeguatezza in realtà ha provocato dei segni meravigliosi perché sono anche per noi segni di quello che è accaduto. Dunque, dicevo, nella genealogia teniamo presente che la scrittura automatica del surrealismo, la scuola del Pacifico, Tobey fino a poi qui in Italia, l'americana fino in Italia, Cy Twombly, e cioè c'è un altro elemento della scrittura, dell'eredità genealogica delle scritture asemantiche. L'attrazione della scrittura, quando si libera dai legami del significato, verso la pittura, cioè verso il disegno, c'è una attrazione straordinaria, fortemente erotica, perché erotica? Perché potrebbe portare al foglio enorme, o ai colori, o al pennello addirittura, cioè sostituire i supporti della scrittura andando a creare un mondo immaginario. Ho citato prima perché mi viene in mente, perché vedo qui il libro di Roland Barthes, Variazioni di scrittura. Roland Barthes negli ultimi anni pittura. Pittura come un nonno in pensione, lo dice chiaramente. Cioè dice, anche sottomettendomi alla vergogna, intellettuale, ricercato, sottolineata il suo prestigio, pittura, fa della pittura, dedica delle pagine straordinarie al colore come manifestazione erotica. Vorrei ricordarvi che lui termina la libertà della pittura nel momento in cui muore sua madre. All'indomani della morte della madre interrompe la pittura, che diventa per lui l'emblema della fine della felicità, cioè non poter pitturare, non poter uscire dalla scrittura. E c'è un bel concetto, non so se sta in una lettera, vado un po' a mente, in cui lui dice ad esempio che le scritture illeggibili, la scrittura illeggibile, i ghirigori, i scarabocchi, non soffrono del problema della sterilità, che è un problema che ha chiunque scrive, chiunque produca senso o voglia produrre senso. È un momento di sterilità, non ho fantasia, mi manca l'ispirazione, non riesco a terminare questa poesia, non riesco a terminare questo saggio, non riesco a terminare questa conferenza. Beh, pensate, la libertà assoluta, direi quasi sessuale, erotica, del pennello che accarezza, termine della tradizione giapponese, che accarezza la pagina e entra in un mondo di beatitudine assoluta. La beatitudine è anche il fatto che inevitabilmente la lingua è potere, e cioè è sempre abuso. Qualsiasi tipo di lingua tende all'abuso, cioè creando il senso ci mette in una prigione. E questo direi che sono alcune brevissime indicazioni che sento di dover dire e che sono anche dettate dalla mia ammirazione per la scrittura asemantica. Uno per motivi molto personali, cioè io non ho avuto un felice inizio scolastico, anch'io ho subito la maestra che dettava e io che ho consegnato dei geroglifici e lei che al ludibrio di tutta la classe l'ha mostrati dicendo guardate come non sa scrivere e non ha assolutamente percezione di che cos'è ordine, misura, grammatica, capacità, tanto che mi disse ricominciamo con il sillabario. Io odiavo il sillabario perché l'alfabetiere, non so se vi ricordate o se l'avete avuto già quel tipo di scuola, l'alfabetiere aveva i disegni, per cui avevi la F e poi c'era un fiore e lei ti chiedeva leggi un po', c'era scritto fiore, tu non leggevi, guardavi il fiore e poi sillabavi fiore, cioè simulavi quello che vogliono sempre tutte le forme di potere. A volte Marco Giovenale nella sua scrittura simula una scrittura piena di senso. Voi dite, vedete, è uno allineato. Poi andate, vi avvicinate per leggerla, non riuscite a leggere neanche una riga. È molto presente nella tradizione asemantica simulare dei libri che abbiano tutte le caratteristiche per essere a posto, diciamo, per entrare in un termine che amo molto, nel comfort intellettuale. Comfort intellettuale o nei consigli di amministrazione che hai avuto delle pubblicazioni. Immaginatevi di fare un po' la Borges, delle pubblicazioni tutte asemiche, i cui titoli però sono Il senso della morte dell'opera di Italo Svevo. E dentro scritture totalmente illeggibili. Allora, dicevo, sono questo quello che mi sento di dire, proprio perché sono convinto che ci sia anche un elemento traumatico, doloroso nelle scritture illeggibili, come spiega anche bene questo libro, e cioè il fatto che il potere della scrittura, il potere della parola è un potere. Io ricordo sempre l'allineamento, l'allineare, rimanere in ordine, e poi l'esperienza di non rispettare i margini del foglio significa non rispettare i dettami, di non naufragio nel pensare, nell'affrontare le parti dolenti dell'esistenza. Ultima annotazione, sottolineo un altro elemento che mi piace in questo libro: la non tentazione della pittura. Cioè, in questo libro lui fa segni, Marco Giovenale fa segni, a volte questi segni diventano disegni, e quando diventano disegni noi entriamo in zone d'ombra, in zone di interpretazione d'ombra, cioè entriamo in una parte oscura della selva dei segni, ma non usa il colore e non usa la tentazione della pittura. Perché dico questo dopo che ho affermato che Roland Barthes pitturava? Perché io ritengo che la scrittura semantica, nel momento in cui entra nella pittura, perde il suo dato tragico. Nella pittura poi hai l'elemento pittorico e sembra che entri in una zona di recinto rassicurante, perché la puoi definire la pittura. E mentre invece se la scrittura rimane illeggibile, è fuori legge, è forestiera, è una disubbidienza, evade, mentre invece nella pittura, avendo un quadro, sei all'interno del sistema della pittura. E dunque ritorniamo a quel concetto iniziale, disubbidisci, metti in atto la tua disubbidienza e fai quello che abbiamo fatto tutti durante le ore spesso mortifere di lezione a scuola, e ci abbiamo fatto scarabocchi. Abbiamo operato scritture asemantiche e illeggibili, ma lo facciamo anche e spesso da adulti, quando ancora c'è rimasto il desiderio di queste forme di libertà. Vi ringrazio. Vuoi dire subito qualcosa tu? Io però lascerei immediatamente la parola. Io sono comunque su una sedia molto destabilizzante, no, visto che dobbiamo parlare appunto anche di questo. Allora, buonasera, sono qui per interrogare il maestro. Allora, diciamo che insomma Giuseppe Carrera ha già introdotto perfettamente tutto il contesto, mettendoci così al corrente di alcuni aspetti effettivamente molto, molto importanti, che sono secondo me un aspetto fondamentale, quello della disobbedienza, no? Cioè, assolutamente, rispetto alla, cioè, la scrittura che non dice, la scrittura appunto che in qualche modo ci nasconde, no? Delle cose. E chiaramente diciamo che c'è un aspetto che è stato già messo in luce, ed è normale che anche forse venga messo in luce quando uno guarda appunto opere asemiche o asemantiche, appunto che uno deve fissare più la propria attenzione, più che sulla scrittura, sulla lettura, no? Probabilmente ci sta questo artista abbastanza così che si muove su più fronti, che è Tim Gates, che è questo australiano che appunto proprio ha messo un po' in evidenza questo aspetto. Quindi Io poi da storica dell'arte effettivamente mi viene poi da pensare più all'aspetto segno, a studiare il segno, la struttura oppure la sua decostruzione, no? E quindi cercare anche appunto cosa si cela sotto a questo. Ma un aspetto che soprattutto ecco di questa bellissima pubblicazione, poi anche guardando le opere di Marco, che si possono effettivamente raggruppare un po' per famiglie, infatti non a caso Marco ha usato il titolo Enciclopedia Semica, che mi sembra molto interessante, che si rifà probabilmente, e questo appunto poi sarà una delle domande che voglio fare a Marco, cioè questa, la scelta di questo titolo, se si rifà diciamo così a un certo amore per l'enciclopedico, per il catalogo, per la lista, per le serie anche che tra gli anni 60 e 70, no? Lui, tu proponi appunto nel titolo, poi in realtà è un'enciclopedia destrutturata, ma la domanda è che siccome appunto dietro al discorso enciclopedico poi, e questo Umberto Eco già ci aveva messo un po' in guardia, c'è il discorso anche dell'accumulo, no? Cioè il pericolo che si cela è quello poi dell'accumulare. Poi in tempi contemporanei appunto l'accumulazione che poi ha a che fare con le merci, con la diciamo l'esibizione, no, del tanto. Ecco, vorrei capire se questo dare questo titolo e quindi anche evidentemente sentirlo questo tuo lavoro come enciclopedico o perlomeno dargli questa sistemazione è un mettere un ordine al caos, cioè cercare magari di dargli appunto un senso in qualche modo, oppure al contrario invece è cercare nel nonsense intrinseco dell'enciclopedia come dell'elenco che si può creare appunto invece rifacendosi un po' a tutto l'amore che appunto non so, Manganelli, la scuola, il gruppo 63, il gruppo 70 eccetera, se c'è quale dei due fronti, cioè dare ordine oppure invece avere il piacere del nonsense in questo? Beh, la domanda è importante anche perché è come configurare in realtà un doppio piano che è però lo stesso, o forse lo stesso piano visto da due angolazioni diverse, nel senso che è evidente che nel momento in cui un percorso, quale che sia, fatto di frammenti oppure inquadrato in serie, come appunto vedrete poi nella mostra, diventa libro, diventa immediatamente, no, chiuso da una cornice e ordinato. La verità poi però è proprio forse nella seconda faccia della medaglia, e ossia, almeno rispetto ad altre esperienze che si sono avute nel Novecento, l'idea mia è completamente anticalligrafica, è completamente anti-sistematica, non sistematica, e destrutturante quanto più possibile. La cosa poi diventa addirittura un discorso un po' più complesso, adesso vedrò come riuscire ad affrontarlo nella mostra vera e propria, dove voi non ritrovate la sequenza, tranne in un paio di casi, la sequenza ordinata che c'è nel libro, ma trovate una ulteriore messa in forse dell'ordine presunto costituito attraverso la forma libro. C'è un'opera degli anni Ottanta straordinaria, che è una di quelle che fa parlare di una tradizione italiana che ha in realtà radici molto precedenti, ma che comunque ha avuto in quella occasione un picco veramente di senso e di bellezza notevole, che è il Codex Serafinianus di Luigi Serafini, che è veramente per certi aspetti un'enciclopedia. Si è fatto per tavole che affrontano di volta in volta evidentemente dei temi di medicina, di fisiologia, di fisica, di funzionamento del mondo, meccaniche, oggetti incomprensibili ma che evidentemente pertengono tutti quanti a un'unica sfera di uso, di utilizzabilità. Ecco, questa idea, che è accompagnata tra l'altro dalla strepitosa, straordinaria, fluentissima, fluidissima e ordinatissima e centratissima scrittura di Luigi Serafini, tanto che c'è chi ha addirittura ipotizzato di poterla tradurre sottoponendola a tutta una serie di algoritmi che hanno trovato delle ricorrenze e quindi le hanno studiate, ecco, è esattamente il contrario di quello che a me interessava fare, cioè proprio uscire esattamente da quel tipo di discorso e dal discorso calligrafico in generale, cioè dal fatto che si voglia far reintrodurre dalla finestra della calligrafia quello che è stato cacciato dalla porta del significato. questo non significa che poi non sia io stesso tentato da quella così sì, veramente tentazione del senso non senso dato dalla ordine, dalla riquadrare per esempio alcuni elementi, dal creare delle apparenti cornici e dei contenuti delle cornici e dei commenti che si giovano anche di linee che appunto in qualche maniera vanno lì a dire questo significa questo. In verità è tutto, e piuttosto che frecce che dicono si va da qui a qui, spesso infatti non c'è direzionalità, ma si tratta di vera e propria dissipazione, cioè questo dissipa questo, non questo spiega questo. O comunque questa è l'idea che io ho avuto del lavoro da fare e fatto. Vederlo così stampato in libro mi dà ancora di più l'impressione che è questo quello che mi interessa fare dal punto di vista grafico. E in questo devo ringraziare, come sempre succede, come è successo per un altro libro importante per me, che tratta di accumulo, che si intitolava La casa esposta, è uscito nel 2007, anche in questo caso commissionato da Andrea Cortellessa per la collana Fuori Formato, che usciva dal formato del libro perché, trattando di un accumulo compulsivo e folle di oggetti, esso stesso diventava, ma imploso, un accumulo di testi disomogenei tra loro e che cercavano di minarsi l'un l'altro. La stessa cosa è successa qui, perché in questo caso qui è stato l'editore Fabrizio Rossi, che in fondo si occupa della vendita dei libri in questo momento e che devo ringraziare, perché proprio nella sua volontà di dare una brutta parola orribile, orrenda, frame, a questa continua fuga dai margini che mi virusava, mi ha costretto in realtà a organizzare dei percorsi. Però dei percorsi che, come ripeto, sono un'enciclopedia del tentativo di uscire dai percorsi. E quindi in realtà, come forse tutti i libri, è un libro paradosso. Perfetto, e quindi diciamo che a livello di composizione e di montaggio uno è anche libero effettivamente di creare la propria combinatoria al limite, no? Sì. Questo mi sembra un aspetto importante anche. Forse aggiungo anche questa cosa qui, ringraziando di nuovo Alberto D'Amico per la disponibilità di questo luogo incredibile. Questo dove siamo ora è un luogo che è più, no, delimitato da degli angoli retti, delle pareti sostanzialmente lisce, e l'altro, che è uno spazio che è stato per lungo tempo dedicato a tutt'altro che a mostre d'arte, invece è un luogo vissuto da più passaggi e più palinsesti sovrapposti, veramente è veramente un palinsesto di attività, e quindi ha delle pareti e un'organizzazione anche spaziale assolutamente non pertinente, non legata a un'idea di, no, del cubo bianco della galleria. E la sfida per me in questo caso qui è stato proprio, visto che c'era già un luogo che usciva di suo dalla norma, dialogare, non impormi io, non imporre i testi alle mura, ma far sì che in qualche maniera questi tentativi di uscire dai margini, dalla regola e da tutto ciò che ha perfettamente elencato Giuseppe, questo mio desiderio dialogasse con quello che di fatto era già di là il muro. Quindi ci sono appunto, come diceva Giuseppe, delle scritture che escono dai margini del foglio e arrivano a diventare dei commenti a ciò che si vede sul muro. Questo potrebbe anche far sì che questa mostra nei prossimi 7 giorni cambi un po', nel senso che io vado di là e tornate a vedere che cosa succede. No? È si lavora anche in parole senso. Valigia inventate da Marco, quindi questa è proprio performativa, no? Anche come tipo cose, di situazione, sì. Assolutamente. Quindi il dialogo con lo spazio c'è perfettamente. Tra l'altro questo discorso, non so, dei foglietti, dei post-it, che c'ha sempre questa idea un po' del precario, dell'aleatorio, dell'effimero anche, no? Questo è un aspetto molto importante nel tuo lavoro, senz'altro. Però vorrei capire, siccome dietro alla pratica semica, che poi parte anche all'inizio del secolo, poi si incrementa negli anni 60, 70, ha a che fare sicuramente anche con tutte le esperienze verbo-visive, no? Certo. Ecco, il rapporto, siccome viene citato spesso spatola, costa, anche Emilio Villa, la sua, certo, atteggiamento oracolare, no, rispetto alla scrittura. Ecco, questo vorrei capire quanto ha contribuito quel tipo di sperimentazione, no, nella tua opera, quanto vivo sia ancora nel nostro contemporaneo quel tipo di sperimentazione. Poi c'ho un'altra curiosità veramente, che mi sembra che emerga parecchio dall'intervista che Giuseppe ti ha fatto, no? Rispetto al femminile, cioè le sperimentazioni femminili, e stiamo parlando, non so, della grande Mirella Bentivoglio, della Giulia Nicolai, eccetera, c'è questo discorso della sperimentazione asemantica del segno che si fa materia, no? Anche, e che passa attraverso la sperimentazione al femminile, mi sembra che sia una cosa che a te abbia colpito e ti abbia un po' indirizzato in qualche modo. Ce lo puoi spiegare? Sì, sì, no, sicuramente, decisamente, e i nomi che fai sono tutti quanti un po' rintracciabili in qualche modo, in filigrana, a volte anche un po' in maniera frontale, in questo libro e in un altro che trovate lì, che si intitola, per andare a Villa, Asemic Sibylls, quindi Sibille asemantiche. Voi sapete che Emilio Villa per un periodo della sua vita ha scritto delle sibille, cioè ha lavorato con dei testi manoscritti, poi incisi anche su pannelli, di carattere oracolare, che facevano riferimento a un'oracolarità chiaramente flessa nel suo modo specifico di intenderla, cioè nulla di metafisico, ma assolutamente tutto legato, tutto concentrato sulla materialità del segno e del linguaggio e del senso del linguaggio, lavorati direttamente in lingua latina, spesso e qualche volta in greco. E nel caso delle sibille semantiche il dialogo è stato più con Albrecht Dürer, quindi con alcuni dei suoi disegni che compaiono in trasparenza, e con un'idea invece non necessariamente di primo grado a semantica, cioè non felicità della mano, ma di sovrapposizione di strati invece di significato assolutamente semantico. La mostra che si intitolava Sibille semantiche, che precedente quel librettino lì che ho fatto in Camera Verde nel 2008, presentava alcuni pannelli, e tra questi pannelli ce n'era uno molto grande, le dimensioni erano forse quelle di quella lavagna lì, però in verticale, e narrava questo pannello di un viaggio a Lione e di tante altre cose che in quel torno di mesi erano successe, ma con scrittura che si sovrapponeva a se stessa. Quindi c'era una serie di strati che, sovrapponendosi, poi scrittura molto sottile, costruivano quella che poi in alcuni altri esempi potete trovare di là, però un po' più grossolana, fatta col pennarello, costruivano appunto un palinsesto di narrativo che non era però in realtà veramente narrativo. E questo è un modo per scompaginare le carte, che è parente sicuramente, deve tantissimo al scompaginamento degli zeroglifici di Spatola, che tagliava le lettere e poi le risovrapponeva in maniera da creare quello che effettivamente era un alfabeto riconoscibile mentale, perché alcuni segmenti evidentemente erano dei pezzi di F, di G, di L, però non significavano nulla. Oppure il lavoro con la parola di Corrado Costa, oppure ancora, l'abbiamo appena detto, la incomprensibilità, che in parte era dovuta appunto agli strati semantici, in parte al latino stesso, e in parte appunto alla sua volontà di giocare con la parola piuttosto che comunicare, che è appunto lo specifico di Villa. Stessa cosa per tante autrici che hanno lavorato in questa direzione. Alcune di queste non italiane, peraltro. Certo. La Atterley, per esempio, o anche italiane, no, in realtà. Poi sto pensando a Tommaso Binga, che ha certo lavorato. Irma Blank, soprattutto. Di Irma Blank, per esempio, che è tuttora attiva, con grandi interessanti mostre, probabilmente nell'occasione di una mostra del 78, se non sbaglio sempre, del 76-78. Dorfles disse Gino Dorfles coniò appunto l'espressione le scritture asemantiche di Irma Blank, quindi un po' è nato lì è nata lì l'espressione. E, ecco, nel suo caso c'è invece una cosa che a me un po' intimorisce e che però mi attira assolutamente, che è la ripetitività del segno, sì, cioè l'ordine. Centinaia e centinaia di pagine con una scrittura assolutamente ipnotica. Per chi non avesse presente, Irma Blank, quel discorso che facevamo tra il canone e la disobbedienza al canone, in realtà usava all'inizio, negli anni 70, dei fogli trasparenti, veline, li metteva gli sovrapponeva un libro semantico, stampato, eccetera. Addirittura nelle prime manifestazioni sue il libro per lei era il nome del padre, cioè faceva parte del regno del nome del padre, e la velina invece faceva parte del regno del nome della madre. Metteva sopra la velina e ricalcava le macchie di colore che a questo punto venivano dalla scrittura, per cui la scrittura risultava desemantizzata totalmente dal fatto che non riusciva a leggerla più bene, perché come se voi mettete un velo sopra un libro stampato, e dunque lei non leggeva più, la distruggeva con che cosa? In realtà con un lino, cioè un lino funebre che doveva coprire il corpo di questi libri congelati che potevano essere di filosofia. Mi sembra, una volta che l'ho incontrata, dal suo ricordo addirittura forse la prima operazione l'ha fatta su o Hegel o Kant, cioè la struttura proprio dell'ordine del mondo, della comprensione del sistema del mondo, e sistematicamente tutta la fenomenologia dello spirito ricalcata è diventata insensatezza totale, o meglio manifestazione di una scrittura azzurra, e poi in velina, trasparente, addirittura attraversata dalla luce, per cui alcune volte si possono anche mettere in mostra come se fossero appunto delle garze, ma queste garze è avvenuto che il trasudamento del senso si è trasformato, come diceva Marco, invece in un meraviglioso insensato, senza alcuna possibilità di poter ripristinare il senso di quello che era il nome del padre, cioè la scrittura maschile, perché loro avevano molto presente il fatto che anche quando noi facciamo la storia della poesia femminile, noi facciamo la storia della poesia maschile femminile del 400 al 500 entrata nel canone, cioè solo a condizione che entravi nel canone potevi essere, allora non a caso petrarchiste, ma se eri fuori dal canone, non è che le donne non hanno scritto ma non sono entrate mai nel canone, per cui è una scrittura che non è più, non ha possibilità di essere letta, è di per sé illeggibile, come un messaggio in una bottiglia non arriverà, non giungerà mai. Tra l'altro alcune autrici contemporanee riescono forse probabilmente a scavalcare questa difficoltà che continua dal punto di vista probabilmente dei filtri della galleria, delle gallerie, sì, o comunque del circuito dell'arte maschile. Grazie a internet ci sono delle artiste straordinarie, ne cito soltanto tre: Anneke Baeten, e Lucinda Sherlock, Lina Stern, Rosei Rappel e tantissime altre, che sono sicuramente forse tra l'altro la maggioranza di ciò che per scrittura semantica si intende in questi anni, che sono un po' sparse in tutto il mondo. Lina Stern vive a Berlino, non è tedesca, dovrebbe essere credo ucraina. Esatto. Anneke Baeten vive in Australia, ma è olandese. Rosei Rappel è statunitense, vive a New York. E chi ho dimenticato? Comunque, insomma, sono tutte quante delle linee anche biografiche che attraversano il pianeta, e che hanno capacità incredibili anche di espressive di scompaginare un'idea enciclopedica della vita che hanno fatto, un'idea anche così di descrizione attraverso appunto la matricità asemantica del segno, e che riescono ad avere visibilità all'interno chiaramente magari di circuiti ancora ristretti, ma secondo me via via sempre meno ristretti, grazie appunto alla comunicazione gioco forza orizzontale che la rete comunque mette in atto. Certo, un po' poi si riprende questo discorso perché diciamo è proprio nelle sperimentazioni degli anni 60 e 70 che le donne hanno finalmente potuto avere accesso a un minimo di espressione collettiva. Comunque da quello che dici e che sappiamo, insomma, le donne, cioè, ma non solo, cioè, le scritture asemantiche comunque creano una rete internazionale, cioè il fatto di andare oltre al significato, naturalmente non è una lingua universale, ma ci siamo vicini poi alla fine, anche se appunto è asemantica. Tutto questo discorso e anche pure quello che diceva Giuseppe rispetto a quel lavoro bellissimo di Irma Blank fa pensare anche a qualcosa di ulteriore, no? Cioè, visto che quello di cui stiamo parlando non è né scrittura, non è poi un'immagine, è una configurazione in qualche modo, no? diciamo che poi si parla molto di disturbo della scrittura, di rumore, di glitch, di qualcosa che di, no, quindi parliamo di qualcosa come che abbia a che fare con il nulla, con il vuoto, no? E questo da che cosa sembra, cioè almeno a me sembra abbastanza evidente, questo un po' fare il verso alle cose, no? Questo prendere l'appunto, oppure fare l'elenco, una tassonomia, oppure fare uno scarabocchio, cioè tante cose che poi bisogna capire, no? Come in qualche modo leggerle. Mi fa pensare appunto a quando uno parla del nulla, del vuoto, dove bisogna in qualche modo circoscriverli, dargli, stargli un po' intorno per definire. Ecco, io ti chiedo se tu ti riconosci in questa dimensione, cioè di questo fare, di avere l'abisso in qualche modo, il vuoto, no? Con cui avere a che fare. E poi legato a questo, cioè tra l'altro i tuoi disegni hanno sempre un po' il carattere della velocità, no? Dell'appunto veloce, della cosa che comunque ha un po' fretta. Ecco, io vorrei capire prima di tutto il discorso sulla memoria, cioè perché questo andare un po' di corsa e appuntare velocemente le cose. E poi l'altra domanda che secondo me penso sia importante è capire, siccome è tutto basato sul segno e sul corpo che fa questo segno, cioè vorrei capire tu in che modo sei implicato in questo tipo di dimensione, che peraltro è una dimensione molto femminile, quella del mettere il corpo nelle cose, no? Che poi nasconde un certo erotismo, anche come diceva anche Giuseppe, sicuramente. Tutto probabilmente ha a che fare sempre con una patologia di accumulo, che è una vera e propria patologia. Chi mi conosce, vabbè, probabilmente avrà sentito questo discorso troppe volte, e che appunto viene dalla mia famiglia, e che io ho imparato in 3 anni di lavoro, in particolare su una casa, la casa di mio padre, che era il pianeta, l'universo, l'aeroporto della disposofobia, che è quindi appunto la patologia del non essere in grado di disfarsi delle cose, che anche non quelle che, non quelle che non si amano, tutto, cioè si accumula di tutto e si colleziona, si seleziona di tutto in maniera assolutamente appunto compulsiva, nevrotica. In parte era anche un discorso che riconosco applicabile a me, e questa autoterapia è durata 3 qualcosa di più anni, appunto legata alla dismissione dell'appartamento di mio padre, che non è stato diciamo uno sgombero, ma è stato una vera e propria conflitto nucleare. Questa operazione ha anche un po' rovesciato l'identità stessa di chi comunque compulsivo, in parte per tanti altri aspetti ancora lo sono, era, e quindi mi ha messo di fronte a quello con cui comunque mi rapportavo in ogni caso anche prima, ma in maniera forse legata alla scrittura lineare, cioè ai rapporti tra vuoto e pieno, ai rapporti tra il tutto detto e quello che ancora resta da dire, quello che è bene che ancora resti da dire, perché quella lonatura, quell'ombra di fondo che sta alla base della scrittura invece limpida è ciò che gli dà rilievo, perché noi vediamo il bianco, il nero soltanto a contrasto col bianco e viceversa. E quindi l'idea di creare anche dei grandi spazi vuoti in cui finalmente riuscire, non solo per propria creatività, ma proprio per esistenza personale, per tentativo di riempire i polmoni di ossigeno, riuscire ad allargare le braccia senza toccare niente, che invece prima era impossibile perché si è circondati dall'aggressione dei segni, del senso, del significato e dalla sovrapposizione dei significati, dall'eccesso di significato. Ecco, questo qui è stato poi, è iniziato a diventare una mia preoccupazione, quasi un'altra ossessione, e quindi è diventata anche una modalità forse diversa di lavorare sulla pagina, perché ci sono poi dei lavori che sono più recenti, dove appunto il vuoto ha uno spazio molto più ampio, e non è detto che le scritture asemantiche che si rapportano a questo vuoto siano dei tentativi per riempirlo, probabilmente sono dei tentativi, sono come degli ultimi segni che si stanno invece proprio dileguando dalla pagina. Detto tutto questo, ovviamente è molto difficile anche riuscire a installare tutto ciò in un ambiente che di suo è così già ricco di rapporti tra vuoto e pieno come questo, con lo studio Campobuario. Per cui ecco appunto il tentativo che ho fatto è tutto quello che nell'altra stanza poi chi vorrà potrà andare a vedere, qualcuno ha già occhieggiato, già sbirciato. Benissimo, volevo solamente fare un'ultima così riflessione su quello che dice Barthes, visto che appunto Giuseppe non si può non citare Barthes, ecco, e sul tema dell'illeggibilità. E il tema dell'illeggibilità che è stato meravigliosamente espresso appunto da Roland Barthes, che tra l'altro si è dedicato anche lui a delle scritture, esatto, lui era, vabbè, sappiamo tutti, amante dei videogrammi giapponesi, cinesi, eccetera. E l'illeggibilità, lungi dall'essere lo stadio difettivo o mostruoso del sistema scrittorio, ne sarebbe al contrario la verità propria. L'essenza di una pratica al suo limite estremo, forse, non al suo centro. Le ragioni di tale occultamento possono essere molteplici, diverse a seconda dei luoghi e delle epoche, ragioni religiose se si tratta di un rapporto iniziatico, gelosamente sottratto a ogni contatto profano, di una comunicazione con gli dèi soggetta a tabù, ragioni sociali se si tratta di assicurare alla casta degli scribi, rappresentante a sua volta di una certa classe sociale, quella del potere, la custodia di ben definiti segreti, di informazioni riservate, eccetera, eccetera. E quindi quello che appunto ci chiediamo, no, guardando delle opere asemiche, in particolare poi quelle tue, e lui poi appunto fa anche riferimento naturalmente a Masson, a Michaud, eccetera, e cioè quanto di questa, cioè lui in pratica trova nell'illeggibilità la vera essenza della scrittura, no? E proprio questo nascondimento, ecco, io vorrei capire se sotto questi arabeschi, sotto queste tessiture che tu crei nei tuoi lavori, questi vuoti anche con cui tu dialoghi, perché il tuo lavoro dialoga col vuoto, no? Ecco, tu quanta verità, cioè, cerchi oppure pensi di incontrare, no, in questa pratica, perché è una pratica. Sì, probabilmente proprio tutto ciò che ha a che fare con le condizioni di possibilità della stessa scrittura, invece semantica, quindi è tutto ciò che lavora col segno un istante prima che diventi segno condiviso, e quindi è quanto mai è centrale, importante, diverso. Non voglio fare un paragone banalizzante, perché sono tutte e due situazioni molto complesse, molto profonde, molto importanti, però ecco un'idea che mi si può presentare parlando proprio di questo, proprio di un momento precedente la condensazione in segno semantico, è quello dell'esperienza del pregrafismo dei bambini. All'età di appunto 4 anni circa si iniziano a fare dei ghirigori in senso lineare, e sono i primi movimenti di coordinamento motorio, cerebrale motorio, che poi portano a, attraverso chiaramente una serie di colpi di abusi bassi, alla scrittura, o perlomeno appunto a quel tentativo di... Ma infatti, scusa, ti rompo. Sì. Roland Barthes, proprio su questo poi lui parlerà. Adesso anche qui vado a memoria, non so se in questo testo o in qualche conferenza parlerà dell'etica del segno vuoto. Qui parlavamo del vuoto, l'etica del segno vuoto, cioè di grafoterapia, cioè la scrittura illeggibile è anche una terapia, è una grafoterapia, cioè un sistema di disintossicazione. Éluard, che non ha mai fatto scrittura illeggibile, dice in un passaggio straordinario delle giornate in cui prende un libro in mano e si incanta a seguire gli spazi bianchi tra le linee, per cui addirittura non legge il nero sul bianco, ma legge il bianco sul nero, cioè le due scritture di senso sono due segni di colore e lui legge l'interstizio bianco. Irma Blank, quando ricalca Hegel, è affascinata dal ritmo degli spazi bianchi, perché a lei risulta che ci sono gli spazi bianchi che sono le fine delle parole. Lei non le legge più le parole, ma legge gli spazi come lo vedremo credo fra poco, come fossero, esatto, come fosse una partitura musicale. È come se lei trasformasse in musica, in una musica tattile, cioè per la retinica, quella che per noi è ancora una volta la centralità del logos, sì, il dominio assoluto, se vogliamo fallocratico del logos, eccetera, e io riduco, praticamente spolpo in questa maniera Hegel da farlo diventare un lenzuolo da stendere al sole, cioè poi vengono stesi al sole, sputiamo su Hegel e ritorna un po' tutto, eh? Cioè Carla Lonzi giustamente poi aveva bisogno di esprimerlo in questo, in maniera così apodittica. Comunque il ritmo, che così diamo anche l'avvio alla parte musicale, no, di questa serata, insomma, è il ritmo poi alla fine quello che rimane, insomma, sì, questo sì, è chiaro. Insomma, o comunque la... Più o meno sincopato. Sì, la forma cava della possibilità di ritmo, e quindi di ritmo poi sensato, e di grafema che poi diventa... diventa lettera e diventa lettera leggibile. 12 anni fa, mi potrei sbagliare anche di molto perché ho un ricordo vago, a Maria Corti nell'archivio di Pavia, cioè, fece una mostra dedicata agli interstizi, ai scarabocchi degli scrittori, cioè tutti autografi, da Moravia a Buzzati a Malerba, nei momenti dell'ozio, del vuoto, no? Quel momento di interstizio, cioè, dove la frase non ti viene, ti sta annoiando, loro non avevano ancora come noi il telefonino, per cui non è che andavano a fare a messaggiare, fece una mostra su, non loro che disegnano, ma sui momenti di distrazione. Meraviglioso taccuino di Manganelli, cioè, con tutti gli scarabocchetti. Sì, sì, anche lui amava fare i fumetti quando mandava le idee, all'inizio, poi dopo anche lui un pochino più ministeriale, però all'inizio ho delle dediche a Giovanna Sandri, che è stata la sua prima, che sono praticamente dei disegni. I disegni dove lui gioca sul suo nome, i saluti, eccetera. Altra grande artista, Giovanna Sandri, sulle scritture, e c'è stato un libro che è stato dedicato, ma dalla Otis University a Los Angeles. E a proposito poi del vuoto e dello spazio intermedio, mi viene in mente il fatto che, cioè, ecco, giocando appunto qui con Chiara, la cosa che immediatamente mi viene in mente, non abbiamo la possibilità nemmeno di articolarla la mano, se non articolando gli spazi tra le dita, e quindi anche ci sono proprio delle ragioni probabilmente antropologiche di costruzione dell'umano nel tempo, di costruzione dell'umano legato appunto alla strutturazione proprio materiale, ossea, no, dalla scimmia in avanti, che ha portato a un certo tipo di idea di rapporto tra il vuoto e il pieno, che non è un rapporto tra due cose che non si parlano, ma che stanno nella nostra stessa struttura e che permettono a noi di essere in qualche maniera semantici. C'è una frase che spesso mi piace ripetere, di una artista e autrice francese, ma sostanzialmente bilingue con l'inglese, che si chiama Rachel de Felutard, che diceva, era ossessionata proprio da questo, il senso è dappertutto, e lo diceva in termini allarmati, quindi sentendosi circondati da questa continua invasione di frecce, e quindi come volendo in questo modo far parlare anche appunto lo spazio. E un Molpo nel Satiricon dice il naufragio è dappertutto. Ed è un poeta mentre scrive. Bon, mille altre cose ci sarebbero da dire, però fare sì, se ci sono delle. Lo so. Opa. Sì, volevo fare una domanda. È molto affascinante il discorso che avete fatto, soprattutto con riferimento continuo a Barthes. No? Mi viene in mente che una delle frasi che più è stata rimproverata a Barthes è quella secondo la quale il linguaggio sarebbe fascista. Forse si può ricondurre anche a questo orizzonte di senso. Però mi chiedo, appunto, posto che questo tipo di operazione, questo tipo di scrizione, più che di scrittura, forse bisognerebbe dire, ha appunto si ribella all'ordine costituito e alla coazione al significato della scrittura, posto che appunto questa è divenuta nel corso della seconda parte del Novecento una tradizione, ci si chiede se in qualche misura non possa diventare paradossalmente anche una forma a sua volta di norma, nel senso che così come la scrittura ha la coazione al significato, una ipotetica scrizione che si vieti tassativamente il significato, a sua volta, non dico che sarebbe fascista, ma evidentemente sarebbe coercitivo in una qualche misura, no? Imporre di parlare è il rovescio della medaglia di imporre il tacere in qualche misura. Ti viene in mente che proprio Twombly, che forse è stato l'artista che maggiormente ha ispirato questi ragionamenti a Barthes, in realtà appunto apparentemente la sua scrizione non ospita parole di senso compiuto, già invita diversi suoi cultori notarono il ricorrere di alcune parole che invece con una certa attenzione particolarmente incentivata potevano essere trovate nel suo carpuglio. E addirittura un paio d'anni fa è uscito un libro di una studiosa, una donna, Irene Jacobus, che ha fatto questo libro paradossale, Reading Twombly, cioè ha certificato e ha scandagliato in tutti i modi possibili tutte quelle formazioni di lettere che possono essere ricondotte a un qualche significato nei suoi quadri. Viene in mente che questo sia una specie di inconscio semantico, perché quando veniva fatto notare a Twombly che c'erano appunto delle parole, tra l'altro parole molto connotate, ricorreva la parola fuck, ricorreva la parola morte in italiano, quindi parole piuttosto pesanti, diciamo, lui si indignava, si ribellava, non voleva assolutamente che queste si potesse pensare che fossero state inserite appositamente, quasi come fossero delle cifre nascoste, delle chiavi per decodificare il senso appunto dell'operazione. Però appunto una specie di inconscio semantico viene alla luce come l'inconscio ottico di Benjamin. Però tutto questo avviene nell'opera del pittore, no? In cui la parola è appunto una sorta di di ritorno del represso, non so, del rimosso più probabilmente. Nell'opera di un artista che viene invece dalla parola, da un poeta, questo tipo di inconscio semantico si manifesta, tu hai notato che si manifesta, l'hai represso quando vedevi che si manifestava, oppure effettivamente invece proprio perché tu non provieni dalla pittura, ma provieni dalla poesia, forse ti senti anche più libero e non hai questa sorta di eruzione semantica, di eritema semantico. No, c'è e insieme non c'è, nel senso che come ti dicevo a proposito della mostra del 2008, c'è stato per esempio il grande pannello di racconto di ciò che era banalmente successo, anche se sovrapposto. E non mi darebbe affatto fastidio se qualcuno un giorno, ammesso si ritrovasse quest'opera, perché quest'opera è andata, a quanto ho capito, rubata insieme ad altre, tra l'altro, più importante di me, è andata a Roma, nel senso, era una delle poche vendute, per l'acquirente si è vista soffiare, vabbè. E non mi dispiacerebbe affatto se con un bizzarro e quasi un po' fonte di sofferenza per chi lo deve fare, insomma, studio stratigrafico venisse fuori qual era la storia di quei mesi, di quei giorni. E lì ovviamente il senso dell'operazione sta nell'operazione, cioè nel procedimento di velatura del senso attraverso sovrapposizione del senso. Poi ci sono dei momenti in cui veramente la scrittura invece si fa illeggibile, non c'è nessun represso che si possa cogliere, e dei momenti in cui effettivamente ci sono invece delle, per esempio quello che questo succede nelle griglie, anche un'altra parola che non credo sia stata inventata da altri, chiaramente non posso dire che inconsciamente io non abbia pensato alle Sprachgitter di Celan, quindi alle grate di parole, ma io mi sono inventato questa parola che è language grid, cioè griglia appunto di linguaggio, come c'è lo hip of language di Smith. In queste scritture c'è una parte semantica e una parte semantica. Una parte semantica che va sgretolandosi, una parte asemantica pura, nel senso che sono veramente delle, una grafia, una calligrafia mimata. Poi ci sono invece quelle che si possono leggere rovesciando il foglio, ossia o non leggere, perché anche lì spesso si tratta di sovrapposizione, cioè voi vi trovate di fronte a delle scritture in stampatello che finiscono una serie di righe, si gira il foglio e un'altra serie di righe, quindi si forma una sorta di griglia. Quando sono stato, io una cosa a cui ho partecipato è stato il Burry Text Festival, cioè un festival legato esclusivamente a questo tipo di sperimentazioni, principalmente scritture di poesia concreta, poesia visiva. È stato, io ho partecipato alla seconda, al secondo di questi festival, era stato nel 2011, Burry è una cittadina vicino Manchester, e direttore del museo dove si svolgeva questa cosa è anche appunto come direttore del museo archivista di tantissimi tipi di scritture, e tra queste scritture ci stavano delle lettere, delle cartoline che si scambiavano dalle persone durante periodi particolarmente infelici in cui magari non potevano permettersi neanche di comprare più di tanta carta, e questa carta veniva usata in tutte le direzioni, quindi veniva scritta la lettera in questa direzione, poi girato il foglio e scritta. All'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano c'è una bellissima documentazione su questo proprio. Ecco, e quindi appunto tradizione, probabilmente, ecco, io ho avuto modo di conoscere, non sapevo che esistessero in Inghilterra, ma appunto probabilmente è il mondo che ne pullula. E quindi in realtà è un conscio inconscio, non lo so, e comunque da parte mia viene sempre alle spalle di una se questo inconscio diventa conscio, e se intende rendersi illeggibile passando però attraverso primi strati di leggibilità, lo fa sempre su una base che non ha nulla di ritmico, nel senso della poesia lineare o della poesia in prosa, è sempre comunque prosa, è sempre comunque narrazione. Forse, ecco, in questo senso inconscio, nel senso che io, che sono, per chi mi conosce, particolarmente distante dal percorso narrativo, soprattutto romanzesco, ecco, è questo il tipo di inconscio che riaffiora attraverso alcune scritture, poi altre no, altre sono proprio semantiche, non c'è niente da fare. Tra una delle cose più curiose è che Tuomini metteva anche dei versi, dei frammenti di versi dentro le sue tele, e quasi sempre la manda a me. Quindi torniamo appunto alla scrittura come partita. Costellazione. Certo. Come musica, insomma. Certo. Visto che è stata chiamata la musica, chiamiamo musicista. Che è Marco Ariano, che io ringrazio e applaudo. Lasciamo lo spazio completamente a lui. Ti posso registrare, Marco? Ti dispiace? Thank you.